Lucifer is lonely, standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help, wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. There's nothing left to say. My God is gonna own me. There's nothing left to say. Snowflake. Ciao a tutte, ciao a tutti. Bentornate, bentornati di nuovo finalmente sulla Mucca Libera, l'unico programma antispecista su www.radiasilo.it. Siamo molto molto molto felici di essere finalmente ritornati in onda per potervi parlare di antispecismo, letture, visioni, cucina vegan, tutto ciò che noi riteniamo sia importante nel mondo antispecista. E oggi, anche oggi, come tutti i lunedì dalle 19 alle 20, ci ritroveremo qui e parleremo di notizie e tanto altro, ascolteremo anche un po' di musica. Nel frattempo, oltre i saluti, voglio ricordare anche che abbiamo un canale Telegram, il nome è La Mucca Libera. Su questo canale potrete trovare i podcast della trasmissione e talvolta anche qualche notizia o comunicato che ci sembra particolarmente interessante. Inoltre potete contattarci al nostro indirizzo mail, che è lamuccalibera@autoproduzioni.net, per segnalarci notizie, inviarci comunicati, osservazioni, ma anche per farci qualche domanda su questo concetto che è per noi così basilare dell'antispecismo, ma forse ancora troppo poco, anzi sicuramente troppo poco penetrato nelle comunità, un po' in tutte le comunità. E iniziamo subito con una prima notizia. È da tanto che non siamo in onda e quindi forse non ricorderete che le nostre notizie riguardano sempre il mondo degli animali, delle altre specie, oltre quella umana, ma anche il mondo dell'ecologia, ciò che riguarda l'ambiente. Infatti vorrei partire proprio con una notizia che riguarda l'ambiente e quindi in qualche modo ovviamente riguarda anche noi tutti, animali umani e non, e che è circolata pochissimo. In realtà ho trovato solamente un articolo mainstream che ne parla, e qualche riga qua e là, ma trovo che sia una notizia fondamentale e di un'importanza incredibile. L'Amazzonia. Ciò che emerge è che l'Amazzonia rilascia più anidride carbonica ormai di quanto invece ne riesca ad assorbire. Ed è quindi in qualche modo l'Amazzonia ha perso la sua funzione vitale. Lo si sospettava già da tempo, ma adesso è arrivata la conferma dai dati degli ultimi 10 anni. Ossia l'Amazzonia appunto ha rilasciato negli ultimi 10 anni il 20% di anidride carbonica in più rispetto a quanta si è riuscita ad assorbirne. La causa di tutto questo è facilmente immaginabile, è in realtà causata dall'uomo. La causa sono gli incendi, non tutti naturali, anzi la maggior parte provocati, e il percorso di deforestazione che l'uomo ha iniziato in Amazzonia e che prosegue indisturbato. Tra l'altro, la ricerca che ha portato avanti questi dati e li ha correlati alla causa, e che è uscita recentemente, dimostra anche come il degrado provocato dall'uomo sia aumentato di quasi 4 volte nel 2019 rispetto ai 2 anni precedenti. Quindi davvero devo dire, come abbiamo già detto altre volte a questi microfoni già nei mesi precedenti, con molto rammarico, anche la crisi virale che abbiamo vissuto in questi ultimi anni non ci ha insegnato davvero nulla. Continuiamo con due notizie provenienti dal mondo della resistenza animale. C'è un sito da cui spesso traiamo delle interessantissime notizie, che è il blog resistenzaanimale.noblogs.org. Volevamo riportare questi due avvenimenti che ci parlano sempre dell'esistenza e dell'importanza dell'esistenza della resistenza animale. C'è un bel post sul sito che ci parla di questa mucca che nel Vermont, quindi stiamo parlando negli Stati Uniti d'America, è stata ripresa mentre è riuscita ad aprire una recinzione elettrificata dove era detenuta assieme ad altre sue compagne nel recinto, e il video mostra questa mucca che apre un manicotto di plastica che regge tutta una recinzione elettrificata, quindi una cosa molto difficile da fare dal lato appunto del recinto, e poi tutte le mucche escono perché fanno una fuga collettiva. Questa è un'immagine, un evento molto bello che ci dà un'immagine bellissima. Diciamo che ho voluto iniziare questa ripresa di questa trasmissione, a cui noi teniamo molto, con questa notizia, perché appunto la mucca libera è sempre quello che vogliamo. La seconda notizia, sempre da Resistenza Animale, anche questa molto molto significativa, ci porta invece in Inghilterra, nella regione della provincia del Devon. La cittadina, che si chiama Milton Damerel, è successo un evento che poi alla fine capita molto molto frequentemente, però è giusto segnalarlo anche in questo caso, perché un maiale che stava per essere portato al macello su un camion, si è riuscito a liberare, è scappato e si è salvato la vita. Perché quindi diciamo anche una bella notizia da dare. Questo maiale ha fatto una cosa veramente incredibile, perché ormai mancava veramente poco all'arrivo al macello. Tanto più che i giornali, il Daily Mail, usando una serie di termini, di parole, di una fraseologia che è sempre quella della violenza specista, infatti ci dice, scrive, stava andando tutto liscio, cioè nel senso che i maiali stavano andando a morire tutti quanti. E invece ha rovinato un po' i piani dell'allevatore e dell'azienda, riuscendo a salvarsi, scappando. la notizia termina con la storia che poi questo maiale è stato adottato, è stato portato in un santuario della zona, quindi oggi è ancora vivo e vive libero. E quello che si può aggiungere rispetto a questo accadimento è che poi le riflessioni anche da parte di chi esercita la violenza poi diventano anche un poco folcloristiche, perché dicono questo maiale si è guadagnato la libertà, adesso gli vogliamo bene, insomma, mentre tutti gli altri poi sono andati comunque al macello, come dicevo prima, appunto tutto è filato liscio, insomma, però diciamo alla fine è un modo di dire che c'è sempre nei giornali, che fanno un po' di folklore e vedono l'unico individuo che si riesce a liberare poi come diventa un beniamino poi in quel momento. E questa era la seconda notizia. Grazie, bellissime queste notizie di resistenza animale, sono sempre ovviamente le mie preferite, mi sembrano quasi quelle belle favole o quelle belle storie da poter raccontare ai bambini e alle bambine prima di metterle a nanna. E io invece purtroppo ho solo notizie che vedo in senso negativo e che sono negative. E infatti la prossima di cui vorrei parlarvi riguarda uno di quei centri di detenzione per animali che noi abbiamo sempre odiato, ossia gli zoo. Pochi giorni fa c'è stato un incendio molto grande in uno zoo della Virginia, in cui purtroppo due giraffe hanno perso la vita. Ovviamente nel momento in cui divampa un incendio all'interno di uno zoo, tra l'altro gli animali sono l'ultimo elemento da salvare, e magari da salvare anche solo ed esclusivamente come bene e non come vita, per cui due giraffe sono morte. Per questo motivo ho spulciato un po' le notizie sulle morti che avvengono negli zoo, che ovviamente sono sempre molto molto nascoste, e ho notato una cosa stranissima: sono tantissime le morti che avvengono negli zoo non per cause naturali, sono tantissime anche solo cercandole dall'inizio dell'anno fino ad adesso, quindi neanche metà anno, pochi mesi, davvero non si contano, e queste immagino sono solo quelle che di cui si ha notizia in qualche modo, quindi immagino che dietro ce ne siano tantissime. Per esempio, proprio pochi giorni fa, mentre appunto queste due giraffe perdevano la vita in un incendio, un ghepardo moriva invece in un altro zoo, sempre negli Stati Uniti, per un errore del personale che lo ha rinchiuso nella gabbia sbagliata. C'era già un altro ghepardo all'interno e uno dei due ha perso la vita. Così come sempre pochi giorni fa invece in India una bellissima tigre, c'era anche la foto, è morta in uno zoo poche ore dopo essere stata catturata. E così io non ho potuto fare a meno di pensare all'analogia anche che creiamo anche per gli animali umani, ossia i centri di detenzione, le carceri, e quante morti avvengono nelle carceri poche ore dopo l'arresto, tant'è vero che il tasso di suicidio più alto sia proprio nelle ore immediatamente successive. Quindi è evidente che, indipendentemente dalla specie a cui si appartiene, la necessità della libertà è assolutamente trasversale. Di questi morti negli zoo non si parla mai, l'ho trovata una cosa tristissima, li condanniamo ad una vita orribile e molto spesso ad una terribile morte. E per cambiare anche un po' argomento, io direi che magari è arrivato il momento di sentire un po' di musica, quindi non ho idea del brano che ascolteremo, perché è il mio compagno di radio che lo ha scelto, però mi suggerisce che è un brano vegano, quindi per me va benissimo, grazie. Mm-hmm. Me gustaría contarte mi día de la marmota en una cafetería, restaurante o en cualquier sitio de papear con conocidos que no hay nada que yo pueda comer. Les digo, ¿tienes alguna alergia? No, es que soy vegana, les explico. Y ahí empieza todo mi martirio, toda una aventura cada vez que abro el pico. Te encuentras al típico que se ofende, que lo toma como algo personal, que se cree que lo hace solo para molestar, que te humilla y te insulta sin parar, te llama radical, te tacha de extremista, se da la libertad de juzgarte a simple vista, se pone rojo, se le hinchan las venas, hijo mío, cálmate, que al final vas a explotar. No entiendo la razón de por qué te molestas, si yo hago lo que quiero y tú haces lo que quieras, será que sabes que haces algo mal. Déjame vivir, para mí radical es el que mata sin necesidad. Y luego está la que te dice que esto es moda, dice que es snob, como si no estuvieras. Mira, colega, si yo fuera snob, llevaría tu móvil y calzaría tus playeras. Oh, mi verdura y yo, sí, esto sí es amor. Verde es el color de la pasión, quieren romper nuestra relación. Oh, mi verdura y yo, sí, esto sí es amor. Verde es el color de la pasión, quieren romper nuestra relación. Te encuentras también al de las mil preguntas, las mil suposiciones, todas ellas estúpidas. Si se acabara el mundo y solo hubiese carne, ¿comerías o te morirías de hambre? Pues mira, no lo sé, yo vivo en el presente y amigo ahora, la tierra se muere. No sabes lo que contamina producir animales, el agua que se gasta y el daño que se hace. Y si tuvieras una vaca y la vaca fuera tu amiga y te diese leche, ¿te la beberías? Y si tuvieras una perra y la perra fuera tu amiga, ¿la preñarías? La robarías los hijos y la leche te la beberías. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pesadilla! Y llega la pregunta que todos esperaban. ¿No echas de menos nada? Sí, el silencio mientras masticaba. Oh, mi verdura y yo. Sí, esto sí es amor. Verde es el color de la pasión. Quieren romper nuestra relación. Oh, mi verdura y yo. Sí, esto sí es amor. Verde es el color de la pasión, quieren romper nuestra relación. Oh, mi verdura y yo, sí, esto sí es amor. Oh, mi verdura y yo, sí, esto sí es amor. Questa era Amy che ci parlava della del suo amore con le verdure. È un brano molto bello, molto simpatico. Torniamo a parlare di notizie. Ce n'è una che ci viene dal nord Italia, ci parla di una situazione molto particolare in cui si trovano i caprioli maschi che vanno nel periodo degli amori alla ricerca del territorio. Stiamo parlando di una zona che è vicina al fiume Tagliamento, quindi se ricordi, mi ricordi di geografia delle scuole, scuole medie, se non sbaglio stiamo parlando del Friuli Venezia Giulia, questo l'azzardo però. Da casa controllerete se mi sono sbagliato. Comunque vabbè, poi alla fine stiamo parlando di una notizia non molto bella, perché è il pericolo che corrono questi caprioli maschi che appunto vanno vicino questo vicino agli argini del consorzio di bonifica, che il consorzio si chiama Ledra Tagliamento, appunto, si fanno male, entrano nelle griglie, insomma si fanno molto male, alcuni sono anche morti, vicino a una centrale idroelettrica, che è una centrale idroelettrica vicino a questo fiume. Quindi se ne sta parlando, insomma, nella zona è stata fatta una petizione affinché il consorzio chiuda queste benedette griglie in modo da evitare che i caprioli poi ci possano cadere dentro. E c'è stato, insomma, un movimento d'opinione piuttosto forte per salvare la vita ai caprioli. E quindi continuiamo con altre notizie. Sì, intanto prima dell'altra notizia vorrei ricordare il nostro indirizzo mail, la mucca libera @autoproduzioni.net per smentire le competenze geografiche del mio collega, eventualmente, anche prenderlo un po' in giro, che fa sempre bene. Comunque, tornando seri, volevo parlare di una notizia che mi ha colpito particolarmente. E che forse è circolata anche più di altre, in questi giorni l'Unione Europea per la prima volta ha autorizzato un insetto come alimento. Si tratta di larve, larve seccate del leggo Tenebrione mugnaio, il nome scientifico è Tenebrio molitor. È sostanzialmente un coleottero che in realtà è più noto come tarma della farina. Questi vermi dovranno essere usati interi, seccati e leggevo che possono costituire anche un simpatico snack, oltre che essere un ingrediente in una serie di prodotti alimentari. La quale serie di prodotti alimentari mi ha particolarmente stupito perché nella misura del 10%, secondo l'Unione Europea, potranno essere utilizzati, inseriti anche in alimenti come pane, pasta, ma l'elenco era veramente lunghissimo e perché sempre a dire dell'Unione Europea, e quindi leggo perché era un virgolettato, tali vermi sono una fonte di proteine a basso impatto ambientale. Ora io vorrei contattare questi geni, e uso volutamente il maschile di questo comitato dell'Unione Europea per chiedere loro se non ritengono che fonti di proteine a basso impatto ambientale esistano già e siano già disponibili nell'alimentazione degli animali umani. Quindi, se ne abbiamo già, e ne abbiamo, vi posso assicurare, diverse, svariate, perché continuare ad utilizzare altre specie, cibo di altre specie? Ovviamente. È partita subito anche un'inchiesta rivolta ai consumatori e alle consumatrici. Saranno mai disponibili consumatori e consumatrici a cibarsi addirittura di vermi? Ti rendi conto, animali? Incredibile. E la risposta ovviamente è stata no. Questa inchiesta, la quasi totalità delle persone italiane intervistate, era un'inchiesta europea, però io ho guardato solo i dati italiani, la maggior parte, la quasi totalità proprio delle persone intervistate si è rifiutata categoricamente, non mangerebbe mai e poi mai un verme. E nonostante le rassicurazioni di chi conduceva l'inchiesta, perché ha specificato che tranquilla, non ci sarà nessun pericolo, perché sarà scritto in etichetta. Come se poi ci fossero dei prodotti alimentari in cui in etichetta non debbano essere scritti gli ingredienti o la composizione non debba essere riportata. Bah, comunque sarà scritto in etichetta, magari anche piccolo, piccolissimo da qualche parte, quindi sapremo se il pane che stiamo comprando, la pasta che stiamo comprando, contiene il 10% di farina di vermi. Nonostante questo, appunto, gli intervistati e le intervistate hanno detto un secco no alla farina che contenga il verme. Perché, mi chiedo io, perché va bene cibarsi della carne del vitello, del maiale, del latte delle mucche e di tantissimo altro, ma non va bene invece cibarsi dei vermi? Cosa hanno i vermi di diverso? Non lo so. Io ormai dopo tanti anni di alimentazione vegan e prima ancora tantissimi, addirittura quasi decenni di alimentazione, nel senso che erano quasi 20 anni di alimentazione vegetariana, davvero non riesco a capire perché dovrebbe fare specie a qualcuno cibarsi di un verme. È bello che questa notizia, essendo circolata, ha creato anche delle reazioni in ambito politico. Ho letto che la Meloni non ha perso occasione per scrivere un tweet in cui si dice indignata da questo scandalo e ovviamente per lei è tutto un gioco politico per potersi scagliare contro l'Unione Europea. Così come c'è stata una dichiarazione stampa del nostro sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali, che in realtà io, mea culpa, per ignoranza non conoscevo, che è un simpatico leghista, il quale ha lamentato questa notizia che arrivava dall'Unione Europea, in quanto l'Unione Europea continua a penalizzare la zootecnia. Questa è stata la sua osservazione. Quindi, quando ho letto la notizia, poi l'inchiesta e poi le reazioni in ambito politico, vieppiù ho subito una sensazione di sgomento sempre più forte, diciamo. Davvero nessuno e nessuna riesce a porre l'accento dal punto di vista giusto, ossia sull'elemento riesce a centrare il focus, ossia che non ci costerebbe niente davvero, non sarebbe assolutamente una rinuncia, non sarebbe un problema per la nostra salute e sarebbe solo beneficio per l'ambiente e le altre specie, iniziare finalmente un'alimentazione esclusivamente vegetale. E questa notizia mi dà il lancio in realtà per una nostra rubrica che inauguriamo proprio quest'oggi. Il titolo è Cucina antispecista. Nelle nostre puntate avremo un piccolo angoletto in cui vi consiglieremo ricette o possibilità per un'alimentazione vegan. Premetto che né io né il mio compare qui siamo chef, assolutamente, però io mi diletto nel cucinare e il mio compare si diletta nel cibarsi di vegetali, quindi abbiamo delle competenze assolutamente non certificate, non professionali per potervi suggerire un'alimentazione vegan, né nessuno dei due è biologo, nutrizionista, medico, Però eccetera, eccetera. sono complementari, diciamo, perché se tu cucini e io mangio, diciamo, sì, tutto torna. Sì, infatti volevo specificare che in realtà abbiamo delle competenze nei due ambiti principali dell'alimentazione, che sono cucinare e mangiare sostanzialmente. E in questo prima dobbiamo trovare un jingle per questa rubrica. Eh sì, in effetti ci vorrebbe, ma pure forse la canzone che abbiamo dato prima non sarebbe male. Hai avuto un'ottima idea e per un attimo io in quell'occasione vestirò i panni di Chef Rubo, che tu come sai è uno dei miei pseudonimi. In ogni caso per oggi non abbiamo nessuna ricetta da darvi, ma volevamo un po' parlarvi del perché scegliere un'alimentazione vegan e magari anche dirvi come abbiamo cominciato noi. Inizio io dicendovi che per me l'alimentazione vegan ha senso solo ed esclusivamente se inserita all'interno di un percorso quantomeno di natura antispecista. Ovviamente nel dire che ha senso non voglio essere drastica, apprezzo comunque chiunque in qualche modo scelga di cibarsi in modo completamente vegetale. Certo, però, insomma, se un fascista o una fascista, un po' di difficoltà nel fatto, anche se vegan, un po' di difficoltà ce l'ho. Quindi, quello che io penso è che è bellissimo essere vegan, fa benissimo al mondo e a noi, però è bellissimo se comincia anche ad aprire la nostra mente, la nostra coscienza verso dei livelli di comprensione differenti del rapporto con le altre specie che una volta approcciati inevitabilmente ti portano a determinati tipi di considerazioni anche politiche. E quindi ad essere effettivamente antispecista. Io, sin da quando ero piccola, ho iniziato, non piccolissima, però insomma, prima del 18° anno di età, ho iniziato ad avere una certa repulsione nei confronti della carne e del pesce, per cui costretta da mia madre, in realtà, aspettare i 18 anni per poter diventare vegetariana. E da lì, insomma, è cominciato un percorso di vita che in realtà di comprensione e di approccio appunto alle altre specie non umane che non ho abbandonato mai più, è andato sempre più intensificandosi e che credo che sia ancora in corso e lo sarà sempre fino a che vivo. Poi sono diventata vegana, non ricordo più quanti anni fa, ormai parecchi. E da allora devo dire che la mia vita è cambiata assolutamente in meglio. Sì, vabbè, il racconto che hai fatto In parte si collega a quella che è stata la mia esperienza, perché anche io da bambino ho avuto sempre un rifiuto sia della carne e del pesce, ma anche dei derivati, animali, formaggi. Ho sempre avuto molti, molti problemi a mangiarli come istinto mio di bambino. C'è stato poi tutto il lavoro negativo che mi si è rivoltato contro da parte non dico solo dei parenti, ma proprio di tutta il contesto in cui purtroppo ci troviamo a vivere. Per cui quando sono diventato vegano è stata un po' una riscoperta in quello che era un po' un mio istinto iniziale da bambino. La scelta ha ragioni, ha contenuti e motivazioni sicuramente politiche e etiche, perché appunto, come prima dicevi tu, il discorso che è molto importante fare è quello dell'antispecismo, a cui appunto si associa questa presa di posizione, che appunto vanno insieme, sono un'unica. Una modalità, insomma, con diverse sfaccettature. Sicuramente la mia vita è cambiata in meglio, non ci sono dubbi, perché un po' perché mi sento adesso, a parte la questione del mangiare meglio, perché mangio con più piacere tante cose che magari anche prima avevo tralasciato, come i legumi e tante cose buonissime che ci sono fortunatamente nella natura, che si possono mangiare. E poi, insomma, mi sento meglio perché mi sento comunque dalla parte di una stessa lotta di cui prima accennavamo, insomma, che è quella della resistenza animale, che è la lotta forse più significativa della nostra epoca, perché se vogliamo parlare dell'antispecismo ha una lunghissima storia, sicuramente. Però purtroppo negli ultimi secoli, o comunque negli ultimi decenni, lo sfruttamento animale ha raggiunto delle proporzioni abnormi, cioè con gli allevamenti intensivi e tutto quello che si fa pure nei mari. Dopo magari parleremo di quello che succede negli oceani. E, per cui penso che sia una delle cose più importanti da fare in questa epoca, e dal punto di vista politico, appunto, come dicevo. Sicuramente avremo modo di parlare di cucina vegana e qualche idea anche di proposta da dare alle persone che ci ascoltano. E intanto, visto che è una rubrica che avremo settimanalmente, volevo anche ricordarvi che potete scriverci all'indirizzo mail per raccontarci la vostra esperienza dal punto di vista alimentare, diciamo come approccio antispecista alla cucina e all'alimentazione, oppure anche farci domande, chiederci consigli, ricette o altro, e per quello che ci è possibile ovviamente vi daremo, sempre ricordando che non siamo dei professionisti, ma poi in fondo diciamo nel nostro approccio politico fa parte anche la possibilità di collettivizzare un sapere, di ritornare a una collettivizzazione del sapere che sia a carico delle comunità e a beneficio delle comunità e non uno scrigno d'oro che viene conservato solamente da grandi professionisti e professioniste per il loro benessere economico, ma quindi io penso che tanto può nascere anche dalla condivisione di idee, informazioni, proprio appunto come sapere collettivo. Direi che adesso potremmo mettere un altro po' di musica e come prima non ho proprio idea del brano che verrà proposto, però a Puoi sorpresa scegliere, ce ne sono due. poi dopo ce lo dirà. La cosa bella è che il mio compare parla lontano dal microfono sperando di essere sentito, ma in realtà non è così. Quindi se potesse far partire un brano sarebbe meglio. Canzone antifascista. Grazie. Sì. Torniamo in onda e iniziamo, riprendiamo la nostra rubrica Letture e visioni antispeciste, parlando di un film documentario di Kip Andersen, l'autore già di Cowspiracy, che ha fatto quest'altro documentario con il suo team, che si chiama Seaspiracy. Sia nel senso di Seaspiracy, nel senso che parla del mare e parla di quello che gira intorno agli abitanti del mare, degli oceani. Il documentario è veramente bellissimo, tanto è vero che ha avuto un sacco di successo, è stato visto in tutto il mondo, ha avuto anche una nomination all'Oscar, se non vado errato. E parte facendo un'indagine, un'inchiesta un po' simile a quella che ha fatto per Cowspiracy, un'indagine che parte da questi delfini che vengono catturati per gli zoo acquatici, per i parchi acquatici marini, e alcuni vengono catturati, altri invece vengono uccisi, parte dal Giappone, dove ci sono queste mattanze di cui abbiamo parlato in trasmissioni di ormai di qualche mese fa, insomma, nell'isola in Giappone, in particolare una volta l'anno ci sono queste mattanze di animali marini. E il documentario di Kip Andersen parla un po' anche di quello che c'è dietro dal punto di vista di sfruttamento e di mercato nero. Situazioni, diciamo, che poi sono molto brutte anche dal punto di vista di sfruttamento non solo degli animali non umani, ma anche del contorno di chi ci lavora in questo settore. E poi il documentario, che appunto secondo me è da vedere, ci parla di tutta la questione ambientale, ci parla di come la pesca industriale, la pesca che sta distruggendo gli oceani, sta distruggendo contemporaneamente tutto il pianeta. Ed è veramente un documentario che fa riflettere, ma parecchio, perché già parlare di quello che sta succedendo alle balene, per esempio, che la morte lenta, l'estinzione delle balene per causa dello sfruttamento e dell'inquinamento, sta portando al cambiamento climatico. Sono situazioni che sono tutte collegate, che sembrano lontane, parlare di pesca, parlare di pesca industriale, però in realtà sono tutte collegate tra di loro, a quello che è sia il cambiamento climatico, ma in generale l'inquinamento e tutta la questione ambientale. Tanto è vero che c'è una metafora, c'è un'immagine che ci lascia questo documentario, che paragona il pianeta Terra ad un'astronave in viaggio, e Eccoci, siamo di nuovo in onda. C'è stato un piccolo problema tecnico. Stavo parlando di questo documentario molto bello di Kip Andersen, Seaspiracy, che ci parla del mondo marino e dello sfruttamento sugli animali marini. E dicevo, c'è un'immagine molto bella in questo film, quando appunto si paragona la Terra, il pianeta in cui viviamo, ad una navicella spaziale, ad un'astronave in viaggio nello spazio, in cui piano piano stanno ammazzando uno alla volta, i membri dell'equipaggio di questa nave. Questo per far capire poi l'importanza in tutto l'ecosistema, degli animali marini. Una volta uccisi, i quali, è proprio tutto il pianeta. Il suo equilibrio, il suo ecosistema, è tutto il pianeta che sta venendo distrutto per quello che è la violenza, lo sfruttamento animale, tutta la pesca industriale. Sono degli animali bellissimi che appunto tengono in mano proprio tutto l'equilibrio del pianeta, e da cui invece di imparare di stare in solidarietà con loro stiamo distruggendo sia loro che noi alla fine, perché è veramente impossibile continuare da questo punto di vista. E quindi, insomma, il documentario ci dà delle cifre, delle immagini molto, alla fine molto dure e molto difficili da vedere, per quanto siano appunto realistiche, e ci facciano vedere come la strage di tutti questi animali sia una delle cose più terribili e più decisive per la distruzione del pianeta, oggi. Sì, una sola cosa mi sentivo di aggiungere rispetto a quello che hai detto, in realtà non è una precisazione, quindi non ci sarà bisogno di inviarti una mail per dirti che ti sei sbagliato. Il regista non è Kip Andersen, ma è Ali Tabrizi. Kip Andersen è il produttore esecutivo. Ovviamente è Ali Tabrizi, insomma, è il suo primo film, è la sua prima esperienza. Ovviamente questa confusione è lecita, in quanto è ovvio che è un documentario che si pone proprio sulla scia di Cospiracy, che nasce direttamente in qualche modo da quel tipo di esperienza, e quindi è normale ricondurlo anche a Kip Andersen. Però mi piaceva sottolinearlo un po' per il gusto di correggerti e un altro po' anche perché è stato meritoria anche l'opera che hanno fatto entrambi, sia Kip Andersen che molto anche Ali Tabrizi, in questo periodo in cui hanno iniziato a pensare al film e poi l'uno come produttore esecutivo e l'altro come regista l'hanno reso realtà, perché hanno in questo periodo hanno continuamente divulgato tramite i loro canali, anche i social o comunque tutti i media che avevano a disposizione, e in ogni intervista che hanno rilasciato hanno continuato a divulgare le informazioni corrette su questo tema e a fare da cassa di risonanza per l'estinzione di massa che stiamo. No, che abbiamo provocato e che stiamo continuando a provocare, e quindi si sono posti in un atteggiamento, secondo me, infatti non a caso loro si definiscono prima ancora che registi, produttori, eccetera, si definiscono attivisti, secondo me non sbagliando, proprio perché appunto il loro punto di vista, come hanno mostrato in entrambi i documentari, secondo me è quello giusto, cioè pone un accento su. Non pone un accento mettendo al centro l'uomo, ma pone l'accento mettendo al centro comunque l'ambiente, quindi non è molto antropocentrico, diciamo, come punto di vista, e questa è una cosa che mi piace molto e che riconosco, diciamo, come forma di attivismo effettiva. Poi mi piaceva questa dichiarazione che ha rilasciato Ali Tabrizi, che appunto è il regista, in conferenza stampa, dicendo: "Questo film trasformerà radicalmente il modo in cui pensiamo e agiamo sulla conservazione degli oceani per sempre. È ora che concentriamo le nostre preoccupazioni ecologiche ed etiche sui nostri mari e sui suoi abitanti. Questa è una nuova era per il modo in cui trattiamo l'habitat più importante della Terra." davvero ha ragione nel dire che è una nuova era e forse avremo la possibilità di cambiare qualcosa se riusciamo ad aprire gli occhi su quella che è la realtà. E il documentario è stato molto visto, è stato subito acquistato da Netflix, che ha fiutato potesse essere un titolo importante, e se l'è subito accaparrato. E da marzo, insomma, quando è stato acquistato da Netflix ed è uscito in streaming su Netflix, è stato molto visto in tutti i paesi del mondo. Non so quanto in Italia, in effetti potrei andare a vedere, magari in Italia un po' meno, però in tantissimi paesi del mondo è stato tra gli acquisti, tra le visioni più viste, il che è abbastanza stupefacente. Speriamo che questo possa aprire gli occhi su quella, a quante più persone possibili, su quella che è la realtà. Bene, noi siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, miracolosamente, visto il problema tecnico, quindi è giunto il momento dei saluti. Vi ricordiamo il nostro contatto, la mucca libera chiocciolaautoproduzioni.net, per raccontarci quindi delle vostre esperienze di alimentazione vegan o per farci domande, curiosità o altro, e il nostro canale Telegram, la mucca libera, su cui potrete trovare anche il podcast della trasmissione nel caso abbiate perso la diretta o la replica. In ogni caso, noi ci rivediamo lunedì prossimo dalle 19 alle 20 su www.radiasilo.it. Ciao a tutte e tutti! So far is lonely, standing there, killing time, can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation, animals, evidence, pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside, I've got friends but can't invite them. Hills burn in California, my turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow. Hills burn in California, my turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. I cannot do this snowflake.